La zanzara veramente, io credo in Dio, ma se dovessi trovare una falla nell'ordinamento è la zanzara, perché non ha un motivo di esistere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai che nel tritacarne buonasera, di que... buonasera a lei, no, ma non ti ho detto che non devi salutare. Ti prego. Non devi salutare, è una roba vecchia, antica, finita, morta. Non voglio che saluti. Ti prego. Non mi far arrabbiare subito. Voglio eliminare i saluti, sono una cosa ridicola, patetica, la roba da anni 70, 80, ancora qualcuno lo fa. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera, buonasera. Non si deve fare, punto. Allora, nel tritacarne di questa vicenda di Roma, che ormai sta diventando una specie di romanzo di intercettazioni in intercettazione, è finito pure il ministro Poletti, è finito per una foto già dai primi giorni di questa vicenda, in cui non era ancora ministro, oggi è ministro del lavoro, è al tavolo insieme ad alcuni che poi sono stati o arrestati o indagati in questa vicenda di Roma criminale. Allora, Poletti si incazza come una bestia perché dice, vabbè, io questo Buzzi, che sarebbe poi, no, l'imprenditore alle dipendenze, sarebbe alle dipendenze di Massimo Carminati, il presunto capo della cupola, anche se alcuni si mettono a ridere parlando di cupola. Per esempio Ferrara dice che sono quattro scagnozzi, quattro ladruncoli senza nessuna importanza, e la mafia è un'altra cosa. Vabbè, insomma, Poletti si incazza per queste illazioni. Addirittura Saviano gli chiede, ci deve spiegare quella foto. Ma quello era il capo della Lega delle Cooperative. Buzzi era capo di una cooperativa importante, si incontrano, no? Bisogna dire che altri li avrebbero messi in croce. Ci fossero altri personaggi non legati alla sinistra come Poletti, per quella foto sarebbe stato messo in croce, lapidato. Però Poletti ha tempo di spiegarsi, i giornali spiegano, eccetera, eccetera. Poletti, incazzato. Mi metto in imbarazzo, a dire la verità mi fa star male, perché solo a vedere il mio nome a fianco delle schifezze che ci sono, sinceramente, almeno io sto male. Oh, Alemanno, ex sindaco di Roma della destra, dice che ha sbagliato a dare fiducia, cioè ha sbagliato squadra, ha sbagliato gli uomini. Ma questa è una responsabilità grave, però. Allora, c'è un altro esponente di Fratelli d'Italia, perché adesso Alemanno è in Fratelli d'Italia, ex, perché adesso è diventato un manager, che si chiama, come sappiamo, com'è il torinese, il gigante torinese, Crosetto, che signor dice, Crosetto. O è, oggi ha detto Alemanno, o è cretino oppure è colpevole, cioè non puoi non renderti conto di quello che avviene intorno a te. Comunque, sentiamo Alemanno. Il sindaco di Roma è al vertice di una struttura che ha molto più di tre persone vicine. Sono tante e sono molte scelte che bisogna compiere. E quindi da questo punto di vista, se tutto quello che oggi emerge dall'inchiesta sarà comprovato, sicuramente è stato commesso da me l'errore di dare fiducia a persone che questa fiducia non hanno rispettata. Ma davvero vi entusiasmano tutte queste cose? Beh, entusiasmano, insomma, fanno riflettere, mamma no? Mamma mia! No. Io voglio leggervi Niente. Alcune frasi dette da esponenti Nappi, del partito... sentiamo la signora Nappi. Aspetta, esponenti del Partito Democratico, no? Perché qui è coinvolto il Partito Democratico Romano, che è stato commissariato. Ma allora, sai, per esempio, un deputato, Roberto Morassutto, ex assessore di Veltroni, che dice, per il 70% le primarie sono pilotate, vanno a votare gli immigrati guidati dai cacicchi locali e quelli pagati un tanto a voto. Solo il 30% di persone che ci crede si presenta ai seggi. Un altro dice: il problema sono le primarie aperte fino all'ultimo. L'ultima volta sono andati a votare un sacco di fascisti. Cioè, per dire che il Partito Democratico Romano a livello locale è diviso per bande, per bande. Allora, Renzi, a Roma manca solo Jack Lo. Battuta di Renzi ieri sera da Mentana, battuta. Il quadro che emerge da Roma è oggettivamente sconvolgente per quelle contiguità a cui lei ha fatto riferimento. Ex criminali di realtà, voglio dire neofasciste, ma quasi, con realtà discutibili. Manca Jack lo squartatore, il mostro di Loch Ness e poi ci sono tutti. Battutona. Beh, però ha fatto bene Renzi, come dire, ma anche se non ha nessuna responsabilità. Ma che deve dire? Faccia. Ma che deve metterci la faccia? Il Presidente del Consiglio va a fare un'intervista. Beh, che vuoi che dica? Ci mette la faccia. Dire, che il, vuoi giorno, dire? Il giorno della bufera, della cosa in cui era coinvolta la giunta di centrodestra. La giunta di centrodestra. Quale giunta di centrodestra? Di Alemanno. Ma se c'è mezzo PD romano, ma che dici? C'è mezzo PD romano, ma che dici? Ci sono alcuni esponenti del Partito Democratico che sono presi. Ma c'è uno delle cooperative, gente rossa. Ma c'è uno della cooperativa, dai, gente legata. Uno della cooperativa, non siamo precisi. Ma una cooperativa. C'è un signore che ha messo in piedi una cooperativa. C'è un gruppo fascio comunista, chiamiamolo così. Un gruppo fascio comunista che fa affari a Roma. Il Presidente del Consiglio, che è di Firenze, che non ha mai vissuto a Roma. Ma che deve dire? Che ha messo la faccia su questo e ha detto: ma tu sei diventato veramente perché non ti iscrivi direttamente al PD l'ufficio stampa di Renzi direttamente? Cioè, ma la cosa è incredibile, perché c'è già il Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio ci ha messo la faccia, l'hai ripetuto tre volte, ma che cazzo vuol dire ci ha messo la faccia? Certo che dice quelle cose, cioè lui che comunque non c'entra un cazzo su questa vicenda, ha detto qui ma come non c'entra. E ha fatto dimettere il segretario. Dai. Scusami, no, la questione è questa. Il segretario è che se no sembra terreno. Mi voglio divertire. Il segretario del PD romano si è appena dimesso nonostante non sia coinvolto in nessuna di queste vicende. Non me ne frega niente. Ma no, ma devi dirlo però. Non me ne frega. Dillo tu che sei portavoce del PD. Dai, dillo tu che sei portavoce del PD. Cosa sono io? Sei praticamente in questo momento sei portavoce del PD. In questi minuti sei il portavoce del PD. Scusami, Gianmarie Cruciani. No, ma sei il portavoce del PD. Non sono portavoce di nessuno perché questa inchiesta Di Pietro. Pignatone avanti tutta. Zittite un attimo perché voglio parlare un attimo. Allora, Carmen Di Pietro, mi voglio divertire un attimo, dai. Carmen Di Pietro era la moglie di Sandro Paternoso. Sono andato a ripescare questa cosa perché è incredibile. Si vuole sposare in chiesa, risposare in chiesa, perché pensa che il matrimonio in chiesa non sia valido civilmente e dunque può continuare a intascare la pensione di Sandro Paternoso, perché ha bisogno della pensione, sentite. Il problema del tuo compagno, il padre dei tuoi figli, è rientrato? Sicuramente sì. Lo hai perdonato? Sicuramente sì. E addirittura vuoi sposarti? Sì, questa è una cosa seria, ovviamente. Sì, sì. Perché mi voglio sposare davanti a Dio e non davanti allo Stato italiano. Perché non posso fare a meno dei soldi della pensione di reversibilità di Sandro. Lo dico a modo mio, non mi va di perdere la pensione, punto. Io tanto quello che ho fatto nella mia vita, no? Però avendo due bambini piccoli devo avere i piedi per terra e ovviamente tutto ciò che faccio da 10 anni a questa parte lo faccio per i bambini. Scanzi contro Salvini, ormai è un classico, basta mettere Scanzi contro Salvini e si ottiene sempre qualcosa, in televisione. Scanzi contro Salvini, sentite. La mia curiosità è, Salvini, ma tu esattamente quando lavori? Cioè ti spiego, domani. Tu sei... Ecco, a meno male, perché tu, visto che sei europarlamentare del 2009, hai una percentuale di assenze che è da record. No, quando no, tu entri nell'Europarlamento, no, ci sono dei video. Bella, no, eurodeputata, lo so che vuoi lasciar perdere, te lo dico, no. Io, eurodeputato socialista belga, quando ti ha visto e hai fatto il solito comizio, non serve a niente l'Europa, giustamente ti ha detto, no, Salvini, no. Tu sei un fannullone perché non ti sei mai visto, scusa. Dilla anche questa agli italiani, sei pagato dagli italiani, 21 anni non vai mai in Europarlamento, mai. Se fossi cattivo ti querelerei, ma non ti voglio querelare perché non sono cattivo. Un'alta percentuale di assenze lo vogliamo 77% negare? 77% di presenza alle votazioni. Caro Parenzo, ma... vi è piaciuta la foto di Matteo Salvini nudo? Soprattutto voi leghisti, certo. Vi siete appassionati? Beh, abbiamo sentito un personaggio un po' particolare, eh? Sì? Boso, con Parenzo. Hola. Ma cosa avete combinato stavolta? Avete messo lì Salvini nudo in copertina su Oggi. L'hai visto? Salvini si mette come carbolle e scappo. Ma ho capito, però dai, un politico che si mette nudo sulla copertina di un settimanale. Ma guarda, i capi può sempre fare quel che vuole. Ma come sarebbe, scusa? No. Ma ti è piaciuto vederlo lì col petto il villoso? Capo ha sempre ragione. Sempre ragione. Proprio credere, obbedire e combattere, tu, una roba purtroppo pazzesca. Purtroppo è così. Questa è la vita. No, cioè, il capo decide, il capo fa. Erminio, come stai? Bene. Sono Cruciani. Come stai tu? Ma io me la cavo, che devo fare? Combatto. Voi dovete combattere. Parenzo, sai, ha un sacco di pregiudizi sulla Lega, ha un sacco di pregiudizi su... Pensa, io dico non che so... lo so che pregiudizi può avere. Andava a trovare una settimana sì e una no borghese a Bruxelles. Ah, beh, tu certo, dici... per pregiudizi possa avere. Per intervistarlo, certo, per sentire no, cose. No, non era sua intervista. No, per cosa? No, eri no, amico, no. Sei amico, no, di Borghese. Non, so. non pentirti di questa cosa. Lo devo Non ti vergognare. Io, per esempio, a Boso lo dico che sono amico di Borghese. Non ho nessun problema a dirlo, eh. Cioè, allora? Voglio capire, siccome si parla molto dei Rom, tu che cosa faresti con i Rom? Ma io, guarda, ve lo lascio fare a voi. No, io, noi. Ve lo lascio fare a voi, siete voi la parte intelligente dell'informazione. No, noi non siamo la parte intelligente. Vogliamo capire, tu i Rom, con i campi Rom, che cosa faresti? Io, guarda, meno che parlo con voi della zanzara, meglio sto. Ma per perché? Cui vi lascio fare a voi tutto quanto quello che volete. No, ma noi vogliamo capire il tuo pensiero sui Rom. Che ma il mio pensiero lo tengo per me. Vabbè, ma tu sei un uomo politico, non è che te lo puoi tenere per te quello che pensi sui Rom. Certo, me lo tengo per me. Ma no, dai, io voglio capire, tu i Rom... È diventato buonista, è diventato fortuna, buonista, dai, no, No. Sì, hai messo la testa a posto, per fortuna. No, io non ho messo la testa a posto, sì. La mia testa è sempre stata... E allora hai paura di dire quello che pensi, hai paura di dire quello che pensi, diciamo la verità. Ma voi siete talmente stronzi noi. Che quando avete finito la trasmissione mandate in giro nei diversi giornali online... E poi fate a conoscenza delle procure della Repubblica, no, quello che vi dicete. Sì, signore. Noi la procura quel che tu dici. Sì, no, signori, la procura della Repubblica non l'abbiamo mai interpellata. Ma siete schifosamente traditori di chi vi rivolge la parola. Ma stai scherzando? Ma che dici? Voi siete schifosamente traditori di chi vi rivolge la parola. Erminio, ma stai scherzando? Stai dicendo sul serio? No, non sto scherzando. Noi non mandiamo nulla alla procura della Repubblica, eh. Sì, signore. Voi potete far quello che volete. Guarda Erminio. No, io non guardo niente. Alla procura della Repubblica. Io mi trovo già dei processi per quello che voi avete messo assieme, avete pubblicato sui giornali online. Noi. Ma non abbiamo pubblicato proprio niente. Ma l'hai detto hai detto tu, l'hai detto, mica noi. Io ve lo dovete tenere per voi, non mandare già. Ma tenere per noi, se lo dici alla radio, ma che discorsi fai? Ma se lo dici alla radio, che colpa abbiamo? Dai, che ho pesati tutte e due chi siete. Ma che vuol dire? State bene per conto vostro, state bene a vendere cazzate, state bene a far tutto. Sì, vabbè. Per cazzi vostri, Boso, a voi un ragionamento non lo fa più. Perché non lo fa? Perché ma no? Perché voi non siete persone da fidarsi. Ma da fidarsi, che tu puoi dire quello voi che vuoi. Voi non mica. Siete persone da fidarsi. Ma noi faccia... Scusami, Erminio, abbi pazienza, scusami un attimo. Ma io vi dico una... Voi siete inaffidabili. Ma non è che siamo amici tuoi, noi. Siamo giornalisti, no, noi. No, io non voglio avere amici come voi. Ma nessuno vuole essere amico qui, né e io allora, né noi. Cosa volete da me se non siete amici? Siccome tu sei uno, non è che sei uno qualunque, non è che intervistiamo un passante, che sarebbe anche interessante. Non so che non intervistate un passante. Intervistiamo allora, una... certe informazioni, certi pensieri, certe idee, me le tengo per me. E allora che la fai fare politica se le tieni per te i pensieri? E io non faccio la politica, andate a prendervi il pensiero. Io faccio il leghista e faccio politica con la Lega. Benissimo, allora io noi ti chiediamo, siccome si parla dei Rom e Salvini è andato in un campo Rom, tu che cosa fai? Salvini, sai, è andato, è stato attaccato dai centri sociali, dai figli di papà della sinistra che voi difendete. Noi, figurati, io sono contro i centri sociali a spada tratta, per cui figurati. Io non sono contro i centri sociali, manco per niente. Non fareste queste domande su Salvini al campo Rom. No, perché sono domande... Perché a un bel momento voi sostenete i centri sociali, questi centri sociali hanno disfatto la macchina di Salvini. Ma tu come... Io ho detto semplicemente che i centri sociali svolgono spesso un ruolo ruolo di supplenza rispetto alla politica. Ma che stai dicendo? Perché lavorano come volontari nei campi rom che voi della Lega usate per fare propaganda politica. Perché voi avete usato la questione rom per pigliare qualche voto. Questo io ho detto sempre, caro il mio Boso. No, voi, avete fatto un uso politico dei rom, voi. Hai capito? Vedete, io certe mattine seguo anche da 7, no? Sì. E quando sento parlare qualche Benivendolo, qualche Benivendolo, io un corno faccio il giornalista da 15 anni. Ma chi Benivendolo... è che va dalla tua del Benivendolo? Benivendolo, scusami, io ti ho detto, ascolti i Benivendoli. Non mi permetterei mai a nessuno a dar del Benivendolo. Io non sono mai andato alla Procura della Repubblica a portare una tua. Io, essendo che poi le notizie me ne mandano, perché poi mi mandano gli avvisi di garanzia. Ma io, noi che c'entriamo? Lo saprò, non voi, uno di voi. Ma uno di noi chi? Ah, Parenzo. Uno di voi. Parenzo. Andremo a cercarli. Poi andiamo a cercare fin dove che sono arrivate. E ci costituiremo anche noi parte civile nei vostri confronti. Stai dicendo che io sono. Costituisco in querela. No, ma stai dicendo che io sono andato. Una causa civile che mi diverto molto di più. Ma con chi la causa? Contro di me, non ho capito. No, perché sapete, con voi ogni tanto bisognerebbe darvi anche una schiacciatina, no? Ah, di legnate. Io con gli avvocati sto analizzando. Ma che cosa? No, eventualmente come potervi beccare. Ma analizza quello che. Analizza quello che vuoi, ma perché stai dicendo che io sono andato alla Procura della Repubblica? No, siamo non pazzi. Ho detto che tu sei andato. Siamo pazzi, siamo. Tu guarda cosa che hai scritto, cosa che hai mandato al giornale online. Ma cosa che c'è? Ma quelli hanno tagliato le trasmissioni io? Alla radio, Boso. Cosa ho mandato io? L'ha tagliato, no, l'hanno detto che è Parenzo che le ha mandati i documenti. Ma quando ma che mai? Siamo i documenti di che? Io non mando niente ai giornali. La gente ascolta. Sherlock, la gente ascolta. Dai, sì, ascolta sì, Derrick, sì, ispettore sì, Derrick, sì, la gente ascolta la trasmissione e sente quello che dice e lo ripete. Quando eri a Telearena. Mai stato a Telearena. Mai stato a Telearena io. Tele Lombardia. Mai lavorato a Telearena. Ma quello che vuoi, là sei andato dopo perché Boso ti ha aiutato a arrivare a Tele Lombardia. Ma questo è interessante. Scusami. Questo è interessante. E cosa a Boso mi avrebbe aiutato a Tele Lombardia? Beh, questo c'è da indagare su questo. Su questo che... ha abbassato questo ma tu ti rendi conto? Beh, caro Boso, non so in quali processi sei coinvolto, però questa sera faremo ascoltare alcune perle dei tuoi interventi, non solo qui. Beh, se qualcuno poi prende, non siamo certo noi, prende le tue frasi e le porta o comunque le fa sentire a qualche procuratore della Repubblica, la colpa non sarà mica nostra, Parenzo, no? Ma ci non sarà mica nostra, amico mio. Follia. Poi cos'è che mi avrebbe messo lui a Tele Lombardia? Vabbè, cioè, questo bisogna indagare. Diffamazioni simili come questa. Su questo bisogna indagare. Ma indagare su che cosa dici? Anche tu sei matto anche tu. Su questo bisogna un po' indagare. Su questa roba qui veramente parte la querela. Bisogna un po' indagare. Ma vogliamo sentire Renzi Mentana? C'è tempo Renzi Mentana? Anzi no, Renzi Travaglio, Salvini sempre in TV, sentiamo. Quando mi porteranno via da Omnibus, qui ci sarà Omnibus e ci porteranno via, magari ci sarà Salvini ospite o Landini o la Camusso, qualcuno che non va mai in TV, quando noi arriveremo a lei questo... Lei è il secondo che va in TV dopo no, Salvini, guardi, attenzione. Da quando faccio il Presidente del Consiglio... Lui resta vestito, questo, almeno questo vantaggio spero stasera lo mantenga. Beh, insomma, diciamo, pensavo di fare il finale a sorpresa, mostrato. Però se lei preferisce lo dica, io non ho problemi. Sì, lasciatevelo dire. Allora, siccome il fatturato di questa specie di cupola di Roma criminale, o come diavolo si chiama, il gruppo che organizzava tutte queste ruberie a Roma, il fatturato pare sia di 200 milioni di euro. Allora, la prossima volta, Parenzo, che si parla, poi si capiscono anche alcune cose, la prossima volta che si parla di decreto Salva Roma e cose di questo tipo, facciamo veramente i forconi, vado con i forconi, però, no, non quelli che manifesteranno da domani questa burletta, con i forconi a impedire l'approvazione di un nuovo decreto per salva dare soldi Roma. A Roma. Perché poi è chiaro come vengono gonfiati gli appalti, come rubano i soldi, eccetera, eccetera. Cioè, basta con questi decreti salva Roma, perché è chiaro che i soldi ci sono, ma sono utilizzati male: clientele, ruberie, appalti truccati, amici degli amici. E dunque gonfiati, eccetera, eccetera. prego. Ti prego. Ti prego. Ma forse Marino dovrà smettere di andare in bici, eh? Perché il prefetto oggi ha detto che nelle intercettazioni viene insultato continuamente e dunque il sindaco di Roma, al sindaco di Roma serve maggiore protezione. Ma io ne esce alla grande da questa. Ma io una cosa che dico sin dall'inizio. Ne esce fortissimo. Beh, Marino. Attenzione, dovrà spiegare anche i finanziamenti elettorali ottenuti, ovviamente trasparenti, certificati dalle cooperative di Buzzi, perché comunque. Sì, la sua il fatto campagna stesso elettorale... che lui sia minacciato da questi vuol dire non lo so, gli hanno insultato. No, però sia insultato. Ho capito, vuol dire. Oggi c'è un articolo su Repubblica in cui si spiega che parte della sua campagna elettorale è stata finanziata con i soldi di Buzzi. No, ma la gente non l'ha visto, invece dunque va detto. Oh, per Salvini, siccome l'immigrazione è un business, bisogna chiudere i confini. Sentiamo. Ecco. Perché l'immigrazione incontrollata è un business. Questi hanno detto mi valgono più gli immigrati e i rom della droga. Noi stiamo fornendo un business. Sì, ma lei come pensa di scusi, chiudere, Salvini. I confini ci sono, che li difendo. Allora, uno ci scrive, ieri sfottevate il Movimento 5 Stelle per questa storia dello scioglimento del Comune di Roma. Il prefetto di Roma Pecoraro ha detto, non ha detto che è un'ipotesi, ha detto che ha le carte sul tavolo e vedremo. Io resto convinto che il Comune di Roma non verrà sciolto. Quando si scioglie un comune perché il sindaco ai massimi livelli, certo, è impelagato in storie di mafia, non mi pare che Marino sia impelagato, magari avrà responsabilità tremende nell'amministrazione della città, non e lo so, giudicheranno i romani. Mezza giunta arrestata soprattutto. Per cui non credo che ci saranno, che ci sono gli estremi per lo scioglimento del comune. È chiaro che poi il prefetto deve guardare le carte, eccetera, e poi valutare, su questo non c'è dubbio. Non ha detto niente di più, non è che ha detto forse scioglieremo, forse non scioglieremo, per cui non dite cazzate, su. Io rimango convinto che lo scioglimento sia una buffonata e non ci sarà lo scioglimento del Comune di Roma. Ci posso mettere la mano a fuoco e scommettere una cena con chiunque voglia mettere 100 euro per una cena, sono pronto a scommettere. Marco, provincia di Milano. Buonasera. Dimmi. Io chiamavo per questo, praticamente volevo dire che io mi occupo di sicurezza, facciamo sistemi di sicurezza. L'altro giorno sono stato chiamato da una cliente nella quale si sono arrampicati di notte al terzo piano, ho fatto primo, secondo e terzo, ma in particolare questa signora praticamente si è accorta a un certo orario che c'era qualcuno in casa e per un'ora e mezza ha fatto finta di dormire terrorizzata. Mamma mia. Allora, noi siamo andati, dopo ci ha chiamato... vabbè, non vi sto a raccontare i dettagli perché tanto. Vabbè, allora? Niente, praticamente è successo che c'era anche la polizia, io ero presente. E queste signore, praticamente, praticamente hanno rubato anche l'iPad della figlia, nel quale c'era quell'applicazione, sa che si riesce a rintracciare dov'era. Sì. I poliziotti hanno verificato e hanno detto no. Signori, noi qua non andiamo, questo è un campo rom, noi lì non andiamo. Allora mi è venuto in mente il parento, non lo so come mai, mi ascolto, allora in quel momento è venuto in mente. Improvvisamente le è apparso in sogno Parenzo. Un'immaginezza, sì. E c'avevo poca saliva in quel momento, però davvero... Cosa voleva fare, sputare? Ma secondo lei... E che ne so, ma lo dica, c'è qui Parenzo, glielo dica, gli sputi in faccia allora, gli sputi in faccia! Ma lo improfumerei, evito, ma il problema Grazie. È un altro, il problema è che veramente io faccio questo lavoro da tanto tempo... Ti prego, vai avanti, ti prego. E vedere... Prosegui, ti prego. Quotidianamente... Ti prego. Queste situazioni... Ti prego. Sì, ma lascialo parlare però. Ti prego. Ma adesso perché hai detto questa cosa non devi fare per maloso. Uno no, che, ho detto ti prego. Uno che vive come te di questa demagogia facendo finta di prendere l'indifendibile dovrebbe avere la dignità, sì, la dignità ti prego. Di fare silenzio. Perché c'è gente veramente che Dai. Soffre, cioè gente veramente che vive nella merda perché è nelle periferie, nelle cose, è sotto... Sì, ma cos'è che contesti? Ci vado ogni giorno nelle periferie. Qual è la contestazione? Sera vado a via Lombroso dove c'è un campo rom. Dai. Vado a lavorare, a vedere e a raccontare, certo. Vabbè, dai, fammi sentire che cosa, certo. Che cosa rimproveri. Sì, non è che vivi là. Che cosa rimproveri, capito, a Parenzo, ma Marco? La colpa di non vivere lì. No, però, ma è scusami, quello che dice l'ascoltatore. Ci vado io. Sì, vabbè, dai. Cazzo, quando ci sono persone come la sinistra in generale, ma poi personaggi che inquadrano questa sinistra come Parenzo, no? Che è uno dei pochi, penso che capisco l'efficacia della trasmissione di fare passare. Vabbè, ma allora che cosa rimproveri? Non ho capito che cosa gli rimproveri. Che quando si parla di persone che delinquono, bisogna avere coraggio di dire c'è una legge. Indipendentemente, certo, che sei zingaro, che sei nero, certo, che sei bianco, che sei rosso, non è nopo, poverino. Sono d'accordo con te su questo. Quando sono d'accordo con te. Di zingari, che quando si tratta di persone, sono d'accordo con te. Per me, uno che ruba, cinese, zingaro, Cruciani, Parenzo, chi ruba, ruba. Oh, questo l'ho sempre detto. Fermi tutti, TG3, sentiamo i titoli. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il video dell'arresto di Carminati, bloccato dai carabinieri mentre era in auto, fermato Giovanni De Carlo, latitante, collegamento della cupola con la malavita napoletana. Marino incontra Cantone, pool di esperti sugli appalti, il prefetto Pecoraro, garantire la sicurezza del sindaco, Zingaretti sospende tutte le gare in corso della regione Lazio. Berlusconi, per il Quirinale, da Renzi mi aspetto un nome condiviso, non espressione solo della sinistra, questa scelta e le riforme vanno di pari passo. Alle acciaierie di Terni ripreso il lavoro dopo l'incontro tra governo, aziende e sindacati, ma tra gli operai restano dubbi e paure per il futuro. Il piccolo Loris sarebbe stato strangolato con una fascetta da elettricista. La madre ripercorre con gli inquirenti il percorso fatto in auto sabato mattina. Continua in tutta Italia la protesta dei licei e non si ferma la polemica tra il sottosegretario Faraone, che difende le occupazioni, e i presidi di alcuni istituti. Il nuovo caso Ferguson infiamma gli Stati Uniti, prosciolto l'agente che provocò la morte di un nero, fermato a luglio la comunità afroamericana, indice una marcia su Washington il 13 dicembre. Questa è un'altra follia. Poi il sottosegretario all'istruzione, da poco nominato, Davide Faraone, Partito Democratico, se ne esce in maniera incredibile l'altro giorno dicendo che evviva le occupazioni, mi ricordo quando si faceva sesso, eccetera eccetera, una roba ridicola. Le occupazioni sono la cosa più assurda del mondo. Beh, cioè, la cosa più folle del mondo sono le occupazioni, no, perché sono una violenza nei confronti di chi non le vuole fare, di chi vuole andare in classe, una violenza spaventosa. Sono un'esperienza anche, sì, di un'esperienza, vita, dai. Vabbè. Non danneggiano quando non danneggiano, come spesso. Io ho fatto tante occupazioni al liceo, Io ho fatto te, le occupazioni. Te, povero te. Mi sono divertito, mi povero sono innamorato. Comunque, non lo deve dire il sottosegretario all'istruzione. Ho fatto il teatro. Non lo deve dire il sottosegretario. Ho fatto un'esperienza straordinaria. Per innamorarsi ci sono tu i bar, le discoteche. Tu sei un malvissuto che hai sempre fatto ai margini. Ma noi eravamo protagonisti della Pantera. Le occupazioni. È stata un'era straordinaria. Ma c'erano le manifestazioni, consapevolezza civile. Soprusi e basta. Nessuno è mai stato. Soprusi e basta. Le occupazioni delle scuole sono un momento anche di crescita per i ragazzi. Ma quale crescita, che si possono ancora per due con giorni cazzate, per due crescita, giorni chiedere qualche diritto in più. Ma che qualche, ma dove vivi? Ma mica la discoteca, mica no, lo stadio. No. C'è, senti, molta più mio, criminalità allo stadio che una bella occupazione di ragazzi felici che si riappropriano dei loro ancora spazi. Io pensavo fossero finite scuole, le occupazioni. Adesso, ma tra l'altro, le occupazioni le fanno per il Jobs Act. Cioè, protestano per l'approvazione della. Non sanno un cazzo e protestano. Ma questo lo fanno perché è il loro futuro. Poi secondo me hanno torto in questo caso, perché dovrebbero, come dire, essere, dai, a favore. Comunque, vabbè, di lasciamo quello, perdere quello che io penso dell'occupazione, non me ne frega niente. Non hai mai punto, fatto occupazioni. Ma fa, figurati. Ma la cosa fondamentale è chiamavo una, la polizia, il sottosegretario, quelli tra quelli, no, infami, no, no, che chiamavano la polizia, ma magari. Ma vatte. Il sottosegretario all'istruzione. Sottosegretario, vabbè, all'istruzione, che, beh, dice che l'occupazione è bella. Poi tanto ci ripensa, perché siccome non lo può dire, no? Ci, sì, ripensa, sentite. Riuscire a comprendere che si possano costruire e mettere in campo iniziative in cui gli studenti sono protagonisti, non devono per forza essere occupazioni, anche quelle sono illegali, ma il protagonismo degli studenti è un fatto centrale rispetto a quelle che devono essere anche le forme di partecipazione. Ma ma una cosa più, eppure non è una persona banale, Faraone, una cosa più banale di questa non l'ho mai sentita. Forse Parenzo riesce ad arrivare a picchi del genere. C'è la partecipazione degli studenti, ma a parte ne va, su, con le occupazioni. Marco da Milano, che non è Marco da Milano, dell'Espresso, ti anticipo, eccetera. Vai. Buonasera. Vai Marco, dimmi. Io volevo dire, nonostante questo scandalo clamoroso di Roma, sì, voi siete subito, insieme a molti altri giornalisti, adoperati in tempo zero a sedare, a narcotizzare le coscienze delle persone, come se fosse avete buttato a taraluccia e vino. Come noi narcotizzare, a parte che ci sono 10 pagine, ci sono 10 pagine sui giornali, ci sono 10 pagine sui giornali. Ricordo all'inizio puntate come può sembrare una battuta, però. Sì. È più di quello che sembra. Quando ho detto, ma davvero mi entusiasmano queste cose? Ma non mi entusiasmano? Che devo dire che un'inchiesta giudiziaria mi entusiasma. Dovrebbero entusiasmarsi, perché questi sono segnali che magari qualcosa sta cambiando. Ma che cosa sta cambiando? No, è cambiato a Roma sicuramente con l'arrivo di Pignatone, quello è sicuro, con l'arrivo del nuovo procuratore Pignatone, che ha cominciato a guardare un po' di carta, a guardare un po' di cose rispetto ai procuratori precedenti. Su questo non c'è dubbio. Ma comunque stasera ne parliamo, cioè abbiamo un ospite più tardi, eccetera. Con calma, qual è il problema? Non ho capito. Tipo Giuliano Ferrara. Ma Giuliano Ferrara ha la sua opinione, no, ma la può dire o non la può dire la sua opinione? È più bello che giornalista, dicendo che sono quattro malfattori. È un vuole dire che non è una roba che si può chiamare mafia, secondo lui, ma è una roba di quattro rubagalline rispetto, diciamo, alla banda della Magliana. Questo voleva dire. E comunque, se Ferrara pensa che questa roba qui non sia una roba di grandissima cupola mafiosa, ma saranno cazzi suoi, gliela vogliamo fare dire? Non è che lo pensa, lo deve dire per forza, anche se non lo pensa. Perché lo deve dire per forza? Perché lo deve dire per forza? Perché lei pensa che dietro ci sia sempre una dietrologia, ci sia dietro un complotto, chissà che cosa? Ha detto la sua opinione, punto. Lo conosciamo da altre cose. Usa la stessa tattica anche per il caso Berlusconi, il caso Rubi, come se fosse la cosa più normale del mondo. Se uno vi ascolta è perché vuole credibilità, vi crede, perché vi vuole bene, perché si affeziona a voi, perché non può sentire altre parti dove tutto è leccato, invece qui culo è culo, capito? Questo è! Vladimir Luxuria e l'amore nei confronti di Salvini. Beh, clamorose rivelazioni ieri, caro Parenzo, qui alla Zanzara, eh? Luxuria, il re dei trans italiani, il mio amico Vladimir. Parole d'amore, sentite. Finalmente, ma finalmente! Iva Salvini retrosexual, con tutti i suoi peli, i suoi cespugli sotto le ascelle e anche quei chili in più. Anzi, se posso dire una cosa a Salvini, non andare in palestra, mi diventi come Beckham, mi diventi come tutti gli altri, un po' di panza, un po' di barba trasandata, fa maschio, va bene! Diciamo che la prova che la Lega ce l'ha duro ancora non l'abbiamo avuta da un punto di vista fotografico. Se proprio devo fare una critica a Salvini è che se fa 30 deve fare 40, quindi la prossima volta tu completamente nudo insieme a uno di colore, così vediamo chi fa più bella figura dei due. Allora eravamo con Marco. Marco, vai. Sì, mi lasci un minuto, finisco quello che volevo dire. Dai, veloce, vai. Ieri guardavo Porta a Porta e c'era Le Manno, quella solita menata quando succedono questi scandali, quella solita cazzata suggerita dagli avvocati. Ho sbagliato a dare fiducia, mi sono fidato delle persone sbagliate. Ho sbagliato squadra, eccetera, eccetera. Sì, è la solita puttanata degli avvocati che dico, mi raccomando, di così ci parliamo un po' il culo. E che doveva dire? Vabbè, ragazzi, andiamo avanti così. E poi c'era Sallusti, là, vabbè, giornalista, ok? Non voglio dire altro, che era lì che diceva era su un vero incalzato da Vespa che diceva ma dov'è la mafia? Questi l'hanno indagato per associazione delinquere, per stampo mafioso, ma la mafia dov'è? Ma la mafia non è mica solo quella siciliana, esattamente, ma Sallusti diceva che indagare per stampo mafioso dà ai magistrati dei poteri in più durante l'indagine, tipo intercettare a tempo indeterminato, erano scoppiate di armi esattamente. E Sallusti diceva questo non è corretto, allora il punto fondamentale è un altro. In Italia poi per carità, scusami, come tutti i magistrati si fanno un culo così per trovare quasi come se aver usato questo cavillo, diciamo, aver usato lo stampo mafioso anche dove non ci fosse, sì, sì, per trovare, per avere degli strumenti in più di indagine, per Sallusti non è corretto, cioè non è corretto, cioè quando si indagano su... Vabbè, ma questa è l'opinione di Sallusti, che pensa che i magistrati spesso ci marciano per essere visibili, ho capito, per visibilità, capito, anche i magistrati. Va bene, Marco, però il punto fondamentale è un altro. Allora, in Italia, adesso vi spiego esattamente quello che succederà nei prossimi giorni, magari non sarà nei prossimi giorni, sarà tra una settimana, eccetera. Siamo abituati a fare i processi sui giornali. Adesso assisteremo nei prossimi giorni a un profluvio, un'enormità di intercettazioni. Ci sono già pagine e pagine di verbali, ma va benissimo, anch'io ho 1000 pagine di qui dentro il computer. Mi hanno mandato questa ordinanza di 1000 pagine, ce l'ho qua dentro, con tutti i nomi, i fatti, eccetera, eccetera. I processi si svolgono sui giornali, non o è che sulla si stampa. Ma cosa, no, scopriamo? Scusa. Soprattutto così. Poi, naturalmente, passa una settimana, ma non si parlerà più. Ce lo dici come critica, no, a chi? All'informazione, ma no, ma in generale, su quello che succede, non sto criticando nessuno. Ma ne devi... poi finisce questa roba qui, non se ne parla più. Vabbè, poi c'è il processo lunghissimo, perché provare queste cose è complicatissimo, e spesso i reati non ci sono. Io dico solo questo. Marco da Milano se n'è andato, Benedetto da Padova, vai. Buonasera. Vai, dimmi. Senti, io sentivo un attimo fa parlare di un argomento che ricorre spesso in quest'ultimo periodo, sì, i campi rom. Sì. Ecco, io volevo dire che se dovessi scegliere dove abitare, avendo per vicini dei campi rom, una discarica di immondizie o Parenzo, sceglierei di vivere vicino alla scarica di immondizie. Penso sia reciproco per me con lei. Cioè, guardi, però scusi, allora Benedetto, lei, penso che se potesse reciproco scegliere tra Rom, Parenzo, una discarica, sceglierebbe la discarica? Deciderei di vivere vicino a una discarica di immondizie. Cioè, lei sta reciproco dicendo che Parenzo... Tendo ad avere questa triple scelta. Sì, Parenzo è peggio della discarica. È peggio della monnezza, sì, dell'odore di monnezza. Sì. E perché, scusi, perché? Ma basta sentire quello che ha detto un attimo fa. Su che cosa? Che le occupazioni sono una cosa positiva. Vabbè, perché, ma quello perché consentono ai... È la formazione, è la sua formazione. È la sua formazione. È una stronzata spaventosa. A me lo dice. Che io, certo, da ragazzo, ho fatto le occupazioni a scuola. No, hai continuato a dire che sono positive. No, lui, dai, è un imbecille, perché siccome... Ho detto che da imbecille è lei e non chi la circonda, perché non ha colpe. Ma imbecille. Questo sai chi sembra, Benedetto? Sai chi sembra? Sembra una cosa. Come si chiama? Ti prego, continua, ti prego. Come si chiama quello là? Continua, di Democrazia Proletaria, uno dei 68. No, Capanna, ma non è... Sembra Capanna, no? No, sì, lo perché so. Capanna ha un argomentare più serrato. Vabbè, e intelligente. Benedetto, dalla voce, ho detto, dalla voce, mamma mia, Benedetto. Posso, dai. Posso continuare? Sì, sì, dimmi. Prego, prego, ecco, ti prego. Voglio dire, uno che afferma con vanto di avere fatto le occupazioni... Più d'una? È evidentemente un rimasuglio del Partito Comunista. Che da ragazzo lottava per l'umanità, abbiamo detto tutto. Un pirla che lottava per l'umanità. No, non lottavo per l'umanità, ma per divertirmi. Sì, chi è? Antonio! Chi è che parla? Sono Cruciani, ciao, come stai? E Parenzo? Non sto bene. Che è successo? Che vuoi? No, volevo, siccome lo so che non puoi venire... Ma che hai? Che hai innanzitutto? Che hai? Cazzo volete? Io sto bene a Piammer Caffè. Ti volevo chiedere una cosa, ma questa storia di Roma, so che intanto non puoi venire in redazione, adesso sei già venuto, ma questa storia di Roma ti ha sconvolto? Senti, per me sono tutte cazzate. Perché? Perché il problema vero del paese qua... Non è se un politico ruba qualche cosa, perché questo è sempre successo, pure dalle pericole, eccetera. Solo ce ne sono fatte troppi tutti i giorni in televisione, quando il problema vero, il problema reale, è che è l'apparato produttivo che è fermo, le fabbriche sono chiuse, la gente non c'ha lavoro. Allora se va avanti in altra posta storia, fa poco restano senza stipendio pure i giudici. A me mi pare che anche se ne impicchiamo uno al giorno del politico, sì, non si risolve un cazzo se tu non fai partire la macchina produttiva. Quello è il problema principale. Ma questo non c'è dubbio, mai visto? Ma hanno praticamente, erano insieme ex terroristi di destra, gente delle cooperative. Ma, guarda, a me mi pare, da quello che ho letto, che i fatti concreti sono pochi e limitati. E comunque questi parlano di mafia dappertutto. Procuratore generale di Roma 3 giorni fa ha detto che a Roma la mafia non c'è stata solo a Latina, ora se ne esce la mafia capitale. a me non mi piace questo presepio, dai. Ah. A me mi pare che stare a fare tra voi e i giudici, stare a fare i politici sotto schiaffo. Ogni giorno dovete mettere in croce qualcuno, ma intanto le fabbriche non partono. A me quello che mi interessa davvero è che fate ripartire la parola produttiva. Ma qui c'è, tutta Roma. Ma ci stanno le mazzette qui. Io sto a farmi sulla fronte al caffè. Ma quale caffè? Aspetta, una cosa. Fate ripartire le fabbriche, non sono per cazzo le cazzate. Ma scusa, ma ti pare normale, David? Cioè, ma ti pare una cosa normale? Cioè, uno lo chiama e questo ti manda a fare il culo. Vabbè, è legittimo. Le cazzate, ho capito, minimizza pure lui allora. È un altro che minimizza. Vabbè, riproviamo, dai, forza. Pronto? Signora, stiamo cercando Antonione nostro, dov'è? Ma chi è lei? E sono Parenzo, cara, scusi. Un attimo. Gira a naffa culo, io lo rubo. Dai, non le posso dire quello che mi ha detto di dirle, no? Ma non è possibile che ci sbatte il pennacchione, non è possibile. Ci sbatte il telefono in faccia, non noi. Può sbatterci il telefono in faccia. È inammissibile. È un atto fascista. Un attimo, sì, adesso cara. Arriva. Grazie. Non me rompe i coglioni, ma me lo fa andare pure a me. No, sono Parenzo. Io scrivo romanzi, non so niente di questa roba. Ma sono Parenzo. Forza latina, forza di una no, mano. Aspetta. Maurizio Forlì, buonasera. Ciao. Dimmi. Io volevo mandarti in maniera bonaria a fanculo. Sì. Quello che in pratica è successo prima, che ho sentito il buon Ferrara dire e minimizzare una cosa di una gravità estrema. Porca sì. Puttana, siamo in un paese che è alla devastazione totale. I principi che sono proprio i politici, quelle merde inumane, che non sono, anzi subumane, magari fossero inumani, sono subumani, sì. Si permettono di fare delle cose astruse, si permettono di fare di tutto. Io sapete cosa farei? Io manderei tutta sta gente, sta merda che abbiamo qui in Italia, sì. La darei in pasto ai familiari di quelli che si sono suicidati perché quelle merde di politici non hanno pagato quello che dovevano pagare, le prestazioni che i vari imprenditori davano al comune. Cioè, lei vorrebbe mandare i politici, lei vorrebbe mandare i politici, dare in pasto i politici, magari quelli non se li vogliono mangiare i politici, cioè, no, se in pasto che vuol dire in senso metaforico, che vuol dire? Che li darei a loro. Ah, li consegnerebbe a loro. Ma come si fa a generalizzare così? Ma è una follia. No, non stiamo generalizzando. Comunque guardi che non c'è, guardi che i politici non sono coinvolti. Cosa vuol dire i politici? Aspetta, poi ma c'è un qualunquismo. Ma che cosa vuol dire? Ma non sono coinvolti solo loro, Maurizio. Bravo. Quello che sta dicendo Ferrara, io non sto facendo del qualunque. Ma Ferrara ha detto che sono ladri, ma non gli sembra la mafia quella, diciamo, paragonabile. 500 milioni di euro non è mafia, ma stiamo scherzando. Guardi, a me la cosa che mi ha colpito oggi, per esempio, è la rivelazione di quel capo dei giardini comunali, non dei giardini, non è un giardiniere, insomma, il capo del servizio giardini a Roma, al quale gli hanno trovato dentro casa, murati, 570.000 euro. Non è credo. Poco, per delle aiuole. Non è e, quello ha detto, e quello ha detto che sono risparmi di una vita, ma scusa, risparmi di una vita uno non è che se li mura dietro. Ecco, questo per dirle che non è che ci sono solamente i politici, poi c'è la complicità spesso dei funzionari, anzi soprattutto perché senza una decina di funzionari non funziona una mazza, non funziona nulla in nessuna città. Ma abbiamo qui, caro Parenzo, un uomo che aveva già scritto tutto, perché la cosa più incredibile del mondo è che in realtà molte cose si sapevano. Lasciamo perdere l'aspetto giudiziario, no? L'aspetto delle responsabilità penali, responsabilità, quello che vogliamo. Però il sistema di potere che c'era a Roma, chi ci guadagnava, le cooperative su un sacco di roba, sugli immigrati, sull'emergenza casa, eccetera, era stato già dipinto, era stato già raccontato da una persona che ha fatto parte della giunta Alemanno per 2 anni e mezzo circa, forse anche 3 anni. Questa persona è un uomo di cultura, infatti è stato assessore alla cultura ed è stato anche uno degli organizzatori della campagna elettorale di Alemanno. Si chiama Umberto Croppi. Ciao Umberto, buonasera. Ciao a voi. Ciao. Come va? Ma ci sono tra i tempi migliori. In questo ruolo di Cassandra. chi l'avrebbe mai detto, chi l'avrebbe mai detto, ha scritto questo libro Roma, che era Roma, romanzo comunale. Diciamo, non dico che non se l'è affidato nessuno, perché ti farei un torto, però insomma non era ancora, non ha avuto conseguenze. In realtà molte cose erano scritte, non le cose giudiziarie, però il sistema. Le cose di rilievo sono due. Una, che il libro è uscito un mese prima che scoppiasse il caso Fiorito. Sì, sì. Al quale poi è seguito l'arresto del vicepresidente del Consiglio Comunale Samuele Piccolo, e poi in tempi più recenti di Stefano, eccetera. L'altra cosa, che io ho utilizzato soltanto notizie già pubblicate dalla stampa. Le ho solo messe insieme, ho fatto un mosaico. Perché quando mi chiedono in queste ore, ma tu sei sorpreso, ma come si fa a essere sorpresi? Sono cose che sono davanti agli occhi di tutti. Chiunque poteva vedere. Quando Ferrara dice che in realtà no, ma la banda della Magliana, la mafia non c'entra niente, qui sono quattro ladruncoli, ha ragione lui oppure no? Ma l'imputazione, che è singolare e anche significativa, di associazione mafiosa, non fa riferimento, come ha ben spiegato Pignatone, alle mafie classiche esistenti. Sì. Lui dice: si è creata un'organizzazione del tutto nuova che ha le caratteristiche di un'associazione mafiosa. E questo tu ci credi? Questo lo percepivi quando eri assessore di Alemanno? Sì, io dico sempre, più quella cosa che io ho sempre denunciato anche, non è l'associazione mafiosa, è il consociativismo, che è una pratica politica, i profili chiari mi interessano poco. Ma cioè destra e sinistra insieme negli affari? Insieme, quella foto di cui si parla molto in questi giorni è proprio la dimostrazione plastica di questo. Cioè Poletti fa bene a ribellarsi a questa, per esempio alla sua criminalizzazione, anche Saviano che gli chiede spiegazioni, oppure... Poletti fa bene, perché in quel contesto lui probabilmente non sapeva neanche il motivo per cui era stata convocata la cena, ma quelli che hanno convocato la cena sapevano bene cosa stava. E perché facendo. Era stata convocata, scusami Umberto? Perché infatti questa è la cosa divertente, nessuno se l'è chiesto finora, io oggi ho provato a rispondere a questa domanda, perché non essendoci nel bilancio del comune i soldi per pagare le cooperative, si sono inventati insieme il sindaco con il capo dell'opposizione un espediente, secondo me ai limiti della legalità, attraverso un'anticipazione bancaria a cui il comune si faceva da garante, con un costo del 4% annuo e con il sistema cosiddetto del prosoluto, cioè è una tecnica che è vietata dalla contabilità pubblica e che crea un rischio e un debito fuori bilancio del comune. Cioè tu stai dicendo, al di là delle cose tecniche, stai dicendo che Alemanno è il capo dell'opposizione, che era Marroni all'epoca, no? Marroni, che era il capo del PD a Roma, in sostanza. Il capo del gruppo del PD. È il capo del PD, inventati... l'avversario storico di Bettini, diciamo, no? Uno degli avversari di Bettini. E di Goffredo Bettini, che era l'altro, uno dei grandi ras del PD. Si mettevano d'accordo, questo era il consociativismo. Sì, si sono inventati questa cosa e sono andati a festeggiarla con la cooperativa rossa, la 29 luglio. E siccome Poletti in quel momento era il capo di tutte le cooperative italiane, l'hanno invitato, lui, ripeto, immagino che... Ma che anno era? Tu eri assessore? No, non ero più assessore, successo 2 anni e mezzo fa. Ecco, mettono d'accordo destra e sinistra? Questo è interessante. Su tante cose, per esempio il caso clamoroso, no, che scoppiò con Fiorito, che io avevo descritto come meccanismo appena un mese prima, è quello della cosiddetta manovra d'aula, cioè il modo in cui i consiglieri comunali, regionali, provinciali spartiscono i soldi in una maniera formalmente legale, non c'è forse un punto penale. Questo però sono soldi dei cittadini che vanno a finire. Ma nel caso della cosa, nel caso di Roma e degli appalti di cui si parla, invece la spartizione dov'è? No, qua se è vero quello che i giudici dicono, che no, ma tu ce lo devi dire dalla tua esperienza. No, io se fossi stato consapevole di questo l'avrei denunciato, non con un libro. Beh, però tu parli oggi in qualche intervista di malaffare. Mi hanno cacciato perché volevo denunciare il malaffare, perché ero contro il malaffare. No, mi hanno cacciato in quanto io mi sono opposto a certi metodi, quelli che stavo descrivendo, tipo la manovra d'aula, eccetera, che io ritenevo non corretti. E siccome il mio modo di fare costituiva un ostacolo, perché se c'è un granello nell'ingranaggio poi diventi diventi difficile da gestire, allora è questo che ha comportato una serie di attriti crescenti che poi hanno spinto Alemanno. Senti, adesso parliamo di Alemanno, però Umberto, sì. Allora, Umberto Coppi è stato assessore alla cultura per quasi 3 anni a Roma, conosce molto sì. bene Alemanno, è stato anche amico di Alemanno, se lo possiamo sì. dire, sì. ha contribuito alla sua elezione. Sì. Oggi Crosetto, un esponente di Fratelli d'Italia, il partito dove è confluito Alemanno, ha detto sì. o è scemo oppure è colpevole in sostanza. Questo ha detto, ha ragione lui, o è scemo o era d'accordo, cioè colpevole in sostanza, ha ragione lui. Allora, io non so quanto lui personalmente fosse a conoscenza dei metodi che pare abbiano usato i suoi collaboratori. Cioè mazzette, eccetera, eccetera. Sì, di una cosa sono quasi certo, cioè? che lui non abbia mai conosciuto Carminati, non sapeva nemmeno chi fosse, ma soprattutto che questo meccanismo non è nato con lui, perché il meccanismo messo in piedi da Carminati e Buzzi, ricordiamo, uno di estrema destra, l'altro di estrema sinistra, sì. e funzionava condannato per omicidio, Buzzi. Funzionava già da molti anni prima. Ecco, ma questo sistema di cui parli, va a vantaggio di chi? Chi l'ha apparecchiato? Chi l'ha iniziato questo sistema di spartizione di appalti, ma appalti in come dire, in settori importanti come le abitazioni, gli zingari, l'emergenza immigrazione, i rifugiati. Sì, questo è il meccanismo attraverso cui si creano le emergenze sì, sì. per poi avere la scusa, il motivo per far uscire fiumi di soldi sì. che fanno la fine che abbiamo visto. E dunque andavano a vantaggio sia della sinistra che della destra, diciamo, o di persone vicine a loro. Io cito un altro caso. Aspetta un attimo, ce lo citi tra poco dopo la pubblicità. Ma siete una vecchia coppia, due gay che si continuano a insultare uno con l'altro. La Zanzara. E lei morirà con questo sogno, invece creperà in trasmissione col suo collega stronzo come lei. Morirà sul lavoro. Allora, siamo qui con l'uomo che aveva previsto tutto quello che sta accadendo, un ex assessore di Gianni Alemanno, che scrisse un libro qualche tempo fa, romanzo comunale, dove c'erano tutte le trame, soprattutto nella spartizione di alcuni appalti. Si chiama Umberto Croppi, che è stato, diciamolo, anche un militante della destra italiana. Come no? Organizzatore dei... da giovane, poi ho fatto altre cose. Poi si è messo, sì, no, poi ha messo la testa a posto. Dei Verdi alla regione. Ha messo la testa a posto, poi che ha fatto? No, poi ho lasciato più di 20 anni fa quell'ambiente, ho fatto il capogruppo dei Verdi alla regione. Ma sto Carminati, lei ci crede che sia a capo di questa mafia o no? Ma io non so se è a capo, e certo era uno di quelli che ne beneficiava di più, è quello che teneva il libro della contabilità. Ma però, lei avrebbe paura di incrociare nella sua vita uno come Carminati? Beh, direi di sì, insomma, da quello che si vede si capisce. Ma è proprio sicuro che Alemanno non avesse nulla a che fare con lui, perché sembra strano, ha piazzato al comune un sacco di gente di destra e di estrema destra, come mai? Allora, al comune Alemanno, nei posti di responsabilità, lui o chi per lui, ha piazzato Franco Panzironi, arrestato. Che con la destra non c'entra, sì. Che è un vecchio democristiano. Riccardo Mancini e Stefano Andrini. Andrini è uno persone che... Persone peraltro che lui ha conosciuto nella seconda metà degli anni 90, erano conoscenze recenti per lui. Ora, uno di Forza Nuova e altri ancora, comunque. Sì. Beh, che credo il capo del suo gabinetto, là, quello dell'ex portavoce di Forza Nuova. Vabbè. Sì, Lucarelli, vabbè, quello era un suo collaboratore di staff, non dirigeva un'azienda. Sì, sì. Comunque, al di là della qualità morale di queste persone, se c'è un'amministrazione di sinistra, si forza collaboratori di sinistra. Sì, anche perché il collaboratore di Veltroni, che è indagato pure lui, anzi arrestato, Odeven, là come si chiama? Odeven, sì. Ha un passato burrascoso di estrema sinistra, ricordiamo. Era uno stretto collaboratore di Veltroni. Senta, no, io voglio capire una cosa, ma cosa ci stava dicendo prima? C'è questa spartizione tra destra e sinistra, come allora, avviene? Ora stiamo parlando di un caso giudiziario, no? Ma non c'era bisogno dei giudici per capire quello che succedeva là. E faccio degli esempi. Esiste un altro caso emergenziale, quello dell'emergenza abitativa, cosiddetta. Sì, sì. Anche là, da 20 anni il comune paga 30 milioni l'anno di euro per affittare dei residence o delle palazzine nate come ufficio e adibite scopo, per tenerci persone senza casa, per cui il comune paga 3-4 mila euro al mese per una stanza dove ci sta una famiglia di 5 persone, no? Allora è evidente, siccome gli elenchi di queste abitazioni sono state più volte pubblicate, sì, con i nomi, sì, c'è qualcuno che ci guadagna, c'è chi affitta naturalmente, è ovvio. Allora non è un non può essere. Ma uno che ci può fare con quei soldi? Ci potrebbe fare un sacco di appartamenti ai Parioli si potrebbero fare? Si risolve con due annualità, si risolve alla radice il problema, invece va tenuto all'emergenza. Come si risolve alla radice? Costruendo le case oppure trovandogli una sistemazione. E per cui a chi conviene invece mantenere questa emergenza? A chi conviene, non può essere solo un caso di stupidità e di spreco, perché come minimo ci guadagnano i proprietari delle cifre che non sono giustificabili. Sì, poi sì. Io non lo so perché per Carminati hanno trovato il libro nero con la contabilità. Sì, sì. Perché non trovano un libro nero con la contabilità, si può solo ipotizzare che una parte di quei soldi ritornino a chi gestisce. Senti, io non ho capito ancora se lei pensa che Alemanno è scemo oppure era d'accordo. Non ho ben capito questa cosa. Lei che l'ha conosciuto bene. Alemanno non è scemo. Era d'accordo allora? Ma questo non posso saperlo. No, vabbè, d'accordo. E allora che ha sbagliato squadra come ha detto lui? È probabile. Io diciamo che qualche diffidenza nei confronti di alcune di quelle persone l'avevo e gliel'ho anche comunicata, ma era la sua storia politica. Lui che diceva, è finito lei... politicamente, secondo lei, al di là delle responsabilità penali, politicamente è finito con questa storia? Ritengo che sul piano giudiziario probabilmente ne uscirà alla fine pulito, sì. Ma che sul piano politico questo sia il colpo finale, perché insomma, perché c'è una serie di eventi, la sua non rielezione, l'impopolarità a cui è arrivato, alcuni altri filoni giudiziari, il complesso di queste cose. Torniamo però sulla foto, su quella foto là di Poletti, eccetera. Sì. Quella foto là, che è una cena, rappresenta secondo lei proprio l'accordo finale che c'è stato su una partita importante di denaro tra destra e sinistra? Cioè sotto Alemanno in realtà il PD faceva finta opposizione, così? È la dimostrazione plastica di quello che dicevo, il consociativismo, cioè questo avviene normalmente, perché operazioni come le assunzioni di massa, la stessa Parentopoli, quando si assumono 800 persone, non lo si può fare se non c'è una spartizione concordata. E il PD partecipava anche a queste cose qua? Ma certo! Il PD di Marroni? Certo! Ma sì, non solo quello di Marroni, tutto, perché poi la divisione avviene per quote, quindi ogni... E quella scena dunque cosa rappresenta? Cioè proprio facevano brindisi, brindavano a che cosa? Ripetiamolo, diciamolo. Siccome non c'erano in bilancio più soldi da dare alle cooperative, insieme avevano trovato un espediente, secondo me, ai limiti della legalità, per cui le banche, e lo fanno ancora adesso perché continua questo... Le banche? Anticipano l'intera cifra, però con degli interessi, e ovviamente con degli interessi e con un rischio, perché poi se a fine anno il comune non è in grado di ripianare quella cifra, tutto questo cosa significa? Che quella cifra non appare in bilancio, che crea dei debiti. Senta, un'ultima cosa ancora, Groppi, ma ha fatto davvero secondo lei il PD nella ciccia, nelle cose importanti negli anni di Alemanno, ha fatto finta opposizione? Allora, ci sono almeno due anni in cui l'approvazione del bilancio è avvenuta alla mezzanotte dell'ultimo giorno utile, e il PD ha ritirato le migliaia di emendamenti che aveva presentato. Ho capito. Se li avesse mantenuti per due volte avrebbe potuto far cadere le mani. Poteva far cadere le mani e non è successo. Questa cosa peraltro non nel mio libro, è raccontata in un libro di un militante del PD romano della sezione Smeriglio, mi sembra. No, un militante di base che ha fatto il diario di due anni di militanza nella sezione di Piazza Bologna e racconta proprio questo episodio che... Senta, ma lei quando un funzionario del comune dice che sono i risparmi di una vita quelli che trovano dentro il muro di casa sua, a cosa pensa? Che è un ladro matricolato che ha preso delle mazzette? Che cosa? A me fa ridere la cosa, poi magari sarà pure vero, però... Cioè oggi ci si può arricchire ad essere un alto funzionario del comune di Roma, se uno vuole si può arricchire, arricchire con i metodi che sono stati svelati, non certo con il proprio lavoro. E Marino, in questo momento lei, Croppi, lo voterebbe Marino? Sì, io l'ho sostenuto in campagna elettorale e sto dicendo, e lo faccio anche con voi, che a Marino gli si presenta in queste ore una occasione straordinaria e definitiva, perché è chiaro che finora gli è stato impedito in qualche modo, perché le cooperative i soldi li prendevano fino a ieri, intervenuto il giudice, continuavano e tutte le altre cose, le aziende municipali inutili che lui ha detto di voler abolire, ora deve dare una svolta a tutte le possibilità. Può farlo. No, beh, però si parla di scioglimento, addirittura qualcuno parla di scioglimento, ma secondo me non avverrà. Lei che conosce bene la macchina, stelle, eccetera, mi sembra. Allora, no. Da un punto di vista strettamente normativo, in questo momento non mi pare che ci siano le condizioni, almeno che l'inchiesta non porti ad altri sviluppi. Però poi c'è la politica, nemmeno per la Polverini c'erano gli elementi normativi per lo scioglimento, alla fine le si è dimessa. Però un'ultimissima cosa, ho capito, se può succedere di tutto, sì. Perché il gruppo del PD si dimise in blocco. Sì, certo. Un'ultimissima cosa che è questa, è la questione della legata a Marino del finanziamento. Escono fuori dei finanziamenti, pure Marino è stato foraggiato da sto Buzzi, come si chiama? No, appunto qua entrano in ballo i dati soggettivi e le responsabilità soggettive. Magari manco lo sapeva, ma sicuramente che non lo sapeva. Marino, la campagna elettorale di Marino è stata finanziata sostanzialmente dal fundraising del partito. Ragazzi, e devo dirvi una cosa, io non mi rassegno al fatto che uno come Buzzi, che è considerato il capo, la mente, come dire, commerciale, economica di questa specie di sodalizio criminale, sia uno che era stato condannato per omicidio, omicidio. Benissimo, devi spiegarla tutta lì. Sì, condannato per omicidio, poi naturalmente fonda una cooperativa in carcere per il recupero dei carcerati, ma va tutto bene, ma secondo me poi uno così, cioè adesso non è che mettiamo, scusa, non però deve, fammi dire una non cosa. Deve, aspetta, non deve poi avere contatti, io lo dico anche degli ex terroristi, non deve poi avere contatti con lo Stato, soldi, appalti. Un attimo, adesso non è che possiamo criminalizzare tutte quelle associazioni di ex detenuti. Oddio, ma chi è che ti chiama in diretta? Aspetta un attimo che vediamo chi è. Il professore è Maltagliati, professor Maltagliati. Pronto, professore? Sì, pronto, buonasera, sono Cipollini. Ma chi è? Dai, su, non rompere i coglioni, dai, che non si sente, dai. È il professor Cipollini. Vabbè, professore? Dai. Alessandro da Verona, dai. Dai, levalo dall'audio, dai. Alessandro Verona, dai. Alessandro. Sì, buonasera, Cruciani. Dimmi. Volevo dirvi questo, che con tutta la stima, che siete due persone intelligenti e capaci, perché state facendo un programma che è seguitissimo. Però che c'è? Ecco, dico, grazie, che certo, siete... meno male. No, vabbè. Vabbè, Alessandro, vai, alzato, che c'è? Dico che siete anche lo specchio di un'Italia fallita, no? In che senso, scusa? Scusi. Allora, qui si parla, no, ovunque di immigrazione, di Rom, eccetera. Ma il problema è quello della tassazione al 70-72%. Di total tax rate. Qui siamo degli schiavi, altro che i cinesi. No, ma è vero, lei ha ragione, perfettamente ragione. Okay. E ci si stupisce poi che ci siano dei signori che intrallazzano con i soldi dello Stato. Lo Stato non ha soldi perché non produce ricchezza, no? Sono soldi estorti con la tassazione. È chiaro che quando lo Stato estorce un 800 miliardi di euro all'anno, no, a gente che lavora, poi è chiaro che chi li usa con tangenti, con percentuali. È vero, lei ha perfettamente ragione. Il problema è lo Stato. Il problema è sempre lo Stato. Finché lo Stato. Il problema sono le persone. Ma è così. No, lo Stato in Italia, finché lo Stato continua a essere foraggiato continua a allargarsi a macchia d'olio, società municipalizzate, gestione di fondi per gli immigrati, finché lo Stato continua a ingrassare in maniera vergognosa rispetto alla gente che lavora, rispetto alle singole persone, succederanno in Italia in particolare, dove c'è una tendenza, come dire, alla corruttela. Scusa, guarda che molte di queste sono state privatizzate. Fammi sentire, molte delle municipalizzate. A Roma no, Alessandro, no, ma nel resto d'Italia in molti ma casi. Ma quando mai? Ma sono indietro. Ma tu sei impazzito, ma i dati sulla privatizzazione delle municipalizzate sono clamorosi, non si è fatto un cazzo. Alessandro, vai. E volevo dire questo, no? Che è chiaro che il perimetro dello Stato si allarga continuamente, più soldi in cassa, più si allarga e quindi più aumenta burocrazia. Allora bisogna ripartire da libertà più piccole, quindi da stati più piccoli. L'Italia è fallita. Vabbè, questo adesso è un altro discorso. L'Italia è fallita, bisogna ripartire dall'indipendenza del Veneto, per esempio. Questo è un altro discorso. Eccola, vabbè. Eccola. Sì, giusto. No, però devo dire che queste cose qui portano acqua al mulino di uno che pensa: ma cosa vuol i soldi dire? Miei me li tengo io, ma e li gestisco come cazzo voglio io. Perché scusa? Perché le inchieste nel Trentino, nell'indipendenza nel Trentino Alto, nell'autonoma regione Trentino Alto Adige non ci sono state, certo, suggerite consiglieri che si compravano le mutandine col vibratore. Ma no, ma per dire che la corruttela c'è comunque, no? Se la classe dirigente è di un certo tipo. No, ma di cosa parliamo? Il Veneto indipendente che così combatte la corruzione. Ma se si toglie foraggio alla gente, le percentuali di corruttela saranno inferiori. Ma non c'è dubbio, fermi tutti, fermi. Il nudo di Salvini ancora fa discutere. Parenzo, non c'è niente da fare. Oggi ne ha parlato persino la BBC. Persino la BBC, sì, aveva BBC. Un articolo, un servizio sul leader della Lega Nord che si mette a torso nudo. Non è piaciuto però alla signora Nappi. Alla signora Valentina Nappi. Vogliamo risentire quello che ci ha detto qui alla Zazzara ieri sera? Perché la simpatia tra Valentina Nappi, una delle più famose porno star italiane, e Matteo Salvini è arcinota, cioè i due proprio non si possono vedere. Però lei è anche abbiamo scoperto che anche nel far l'amore è ideologizzata. Molto ideologizzata, ecco, questo è interessante. Molto ideologizzata, per esempio, cioè, non vuole i conservatori. Se uno è un conservatore, ha detto. Se uno è un conservatore non ci scopa. La Nappi non ci scopa. Nappi su Salvini. Ha visto le foto di Salvini su Oggi? Ho visto fortunatamente solo la copertina. La copertina, perché fortunatamente? No, dentro è uguale, dentro. Potrei tipo disarraparmi a vita. I conservatori mi disarrapano. Vabbè, d'accordo. È una progressista. Ma sono conservatori brutti, senza. Vabbè, ho capito, però cioè, la foto, quella foto là in copertina proprio le fa schifo. Sì. Però adesso questo è veramente razzismo, questo è razzismo, come dice che i napoletani non le suscitano nulla e addirittura non sanno scopare, adesso addirittura Salvini disarrapante, Parenzo, questo mi sembra francamente esagerato, o no? E poi soprattutto sui conservatori, cioè perché c'entrano i conservatori? Comunque, sentiamo quando dice per esempio che piuttosto che con Salvini cosa sceglie la Nappi, attenzione è pesante questa, bambini, tappia le orecchie, gente debole di cuore, moralisti, fautori di una Confindustria moralizzata, gente di famiglia cristiana. Mi devi però chiamare al cellulare, preti, ora. No, aspetta. Perché no? Aspetta un corno perché mi sto spostando al campo nomadi dove c'è in corso un problemino, bisogna andare lì dai nomadi. Sì. Io la foto in sé, il contesto, la simbologia e poi sì, fa schifo anche Salvini. Preferisco leccare un'ascella sudata. Non lo so, ho pensato quanto sudata. Da quante ore. Ma diciamo così, preferirei prendermi l'ebola, va? Meglio l'ebola di Salvini, dai, su. Allora, dove andiamo? Andiamo a Nicola, Roma. Sì, pronto? Vai Nicola. Pronto, sì. Io chiamo perché vorrei dire un sonetto che ho imparato 55 anni fa. Sì. Che fotografa la situazione che c'è adesso a Roma. Brevissimo. Alloche che sarvare nel Campidoglio vada un pensiero assai riconoscente. Ma adesso ci ha assediato certa gente che ruba, magna, beve e non fa niente. Stiamo per arrivare all'assurdo, qui si sono fregati tutto. O che correte, sarbateci da questi se potete. Grazie Nicola. Grazie Nicola. Ciao. Grazie. Matteo Vicenza. Matteo. Sì, pronto? Dimmi. Ciao a tutti. Io volevo dire una cosa, ma penso che sia ormai noto, ormai questo paese sappiamo che è completamente finito, andato e irrecuperabile. Però devo dire anche che questo paese va male soprattutto per un motivo. Sapete qual è? Qual è? Il motivo per il quale questo paese va male è perché c'è gente come Parenzo, nel senso che ragiona come Parenzo, io voglio bene a Parenzo che mi è anche simpatico. Nel momento in cui lui tenta di difendere gente come quelli dei campi Rom, purtroppo si torna sull'argomento, mi risulta difficile capire e soprattutto sperare in un cambiamento. Io vorrei capire Parenzo come può pensare di difendere queste persone che soprattutto in questo caso bisogna generalizzare, perché questo è uno dei pochi casi dove bisogna generalizzare. Ma perché non ho mai visto un campo Rom lavoratore. Parenzo? Parenzo gli dice di non difendere nessuno che non rispetta la legge. Bisogna smetterla con dire che Parenzo non. Parenzo, chi non rispetta la legge lo prende e lo mette in galera, prima in tribunale e poi in galera, capito? Questo è il punto. Matteo? Sì, ma Matteo contestava un'altra cosa, cioè Matteo contestava il fatto che la cosa è il giustificazionismo nei confronti dell'esistenza Ho detto che di quelle situazioni ci sono persone che lavorano, molte, ma che lavorano. Molte, ma altre quando si annidano in mezzo, si annidano dei criminali. Perché si annidano dei criminali? Sì, e poi come mai quelli onesti non li smascherano i criminali? Come mai? Perché chiaramente se tu sei in una situazione continua... Ah, beh, certo, adesso stai giustificando questa roba qua, dai. No, posso giustificare questa roba qua, io... Senti, Davide, però non si sente un cazzo, dai, amico mio, su, dai, ricollegati, dai. Massimiliano da Milano. Buonasera direttorissimo. Dimmi. Scusi, a parte che sono un po' preoccupato perché mi sembrate un po' mosci da qualche sera, cioè se non c'è la Nappi siete veramente mosci. Ma che cazzo vuol dire? È così, così. Ma cosa vuol dire? Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Ma che dici? Ma che dici? Ma che ti inventi? Ma non ho capito che si deve avere solo la Nappi. Vuoi la Nappi? Vuoi la Nappi due ore e mezzo? Ma che cazzo dici? Così mi piace, così mi piace. Ma dai, non rompere i coglioni con queste stronzate, dai. Non dica le parolacce che poi si offendono. Comunque io non chiamavo per questo, ma per un'altra cosa. Prima il suo collega Parenzo ha detto testuale, credo di ricordare, chi chiama la polizia durante le occupazioni è un infame. Allora, a me sembra che debba un attimo. Vabbè, ma Parenzo è quello che è, cioè pensa che le occupazioni siano belle, che chiamare la polizia sia sbagliato, chiama infami, chi chiama la polizia, che devi fare? È così, cioè che dobbiamo fare? Scusami, non ha detto che è sbagliato, ha detto che chi chiama la polizia è un infame. Sì, ma è una puttanata, cosa vuoi che ti dica? Una puttanata. E lui dovrebbe anche chiedere scusa. Però chiedi scusa, Parenzo. Insomma, mi sembra una cosa veramente indegna di lui. Chiedi scusa. No, io non chiedo scusa proprio a nessuno. Ma come no? Lei dice che è un infame, chi chiama la polizia? Scusi, lei deve chiedere scusa. Ma a cosa devo chiedere scusa? Non ho capito. Lei ha detto testuale, chi chiama la polizia? Allora, la premessa è questa. Davide, hai ascoltato quello che ha detto Massimiliano? Io ho detto chiaramente che chi chiama la polizia, lo dicevo ovviamente in quel contesto che ho vissuto io. Sì, paraculissimo. Ma no, paraculissimo proprio un corno. Ma che cosa? Non ho capito. Se uno chiama la polizia perché c'è un'occupazione, è un infame. È un infame. Da ragazzo ho fatto le occupazioni, ho fatto le occupazioni, non è mai successo niente. Non ho mai fatto nessuno scontro con la polizia. Abbiamo occupato due volte per due anni consecutivi il mio liceo classico. Bravo, bravo, complimenti. Non sgomberare assolutamente nulla, era una piccola esperienza di vita. Non ha fatto male mai a nessuno, nessuno per fortuna ha rovinato la scuola. Complimenti, complimenti, questo, bella la vita, questo, bella la vita, questo, bella la vita. Risultati, risultati che ha portato l'occupazione della scuola, un cazzo. Questo guarda, è il punto fondamentale. Abbiamo introdotto l'ora di teatro. Sì, l'ora di teatro. L'avete introdotta voi l'ora di teatro, ma smetta. No, però c'erano delle cose anche è una crescita umana. Sì, la crescita umana, sono altre cose, non l'occupazione. Massimiliano, dimmi, dai. No, se non sei io continuo almeno da giovane, scusa. Ecco, sì, dobbiamo essere tutti di sinistra giovane, però sì, no, beh, certo. Si chiama ironia, ma questo è un imbecille proprio. No, scusi, no, si chiama ironia. L'imbecille lo dice a qualcun altro. Ma guardia, lei a me non cerchi la parola ironia, lei non ha nemmeno dai greco. Lei non mi conosce, mi dà dell'imbecille. Ma certo, deve chiedere quello che dice. Ma non la conosco, lei non si deve permettere, innanzitutto, perché voglio dire, nessuno le ha dato il permesso di usarmi dell'imbecille. Seconda questione, io insisto, lei ha un imbecille perché non capisce, se uno non capisce no, è lei che non capisce, mi in questo frangente lei che dimostra di essere no, un imbecille, ma poco male. No, è lei che dimostra, no, mi dottor Parenzo, lei dimostra di non capire lei perché non ascolta, mi prevarica. Allora, le sto dicendo che lei ha detto che chi chiama la polizia è un infame. Lei deve chiedere scusa per questa affermazione. Punto. No, non vuole chiedere scusa perché la pensa così. Perché la pensa così. Perché dall'alto della sua cultura di sinistra lui fa quello che ma vuole. Non c'è ma questo è un altro, è noiosissimo. Lei Giovanni da Lecce, grazie Massimiliano. Abbiamo capito, avete già litigato abbastanza. Va bene, d'accordo. Giovanni, hai dato ragione al sottosegretario che dice che occupare è bello. Giovanni da Lecce, dai. L'ha detto anche il sottosegretario Faraone. Appunto, ha detto una solenne puttanata, infatti dopo si è pentito di averla detto. Ma ha capito lo spirito di quella cosa lì, di quella roba di gioventù, quella cosa che ti fa in gioventù. Ma che vuol dire? Ma sono parole banali. le cose, il sacco a pelo, la scuola, la gioventù, sono tutte parole sono lì a scuola abbracciati. Giovanni da Lecce, fammi sentire Giovanni da Lecce. A scuola al sacco a pelo ci vai al coso, al camping, no? A scuola ci va la gente che vuole studiare, e se qualcuno vuole studiare, anche fosse una sola persona, fosse uno solo che vuole andare a scuola a fare lezione, quello va tutelato nei confronti degli altri, fosse solo uno. Giovanni da Lecce. Buonasera Cruciani, senta, io vorrei dire soltanto una cosa: bisogna costruire i campi di concentramento, e se non piacciono i campi di concentramento ci sono i gulag. Ma per chi, scusi, i gulag? Per la classe dirigente che abbiamo oggi. Vabbè, i gulag per la classe dirigente, amico mio, che ti devo dire? Allora, oggi il popolo italiano è diviso classe dirigente contro il popolo. Sì. Cioè, sono tutti contro di noi. Le segnalo che la classe dirigente è votata da quello che lei chiama popolo. Sì. Cioè... No, guardi, io l'unica ragione che gli do a Berlusconi è quella che ci ha detto che siamo un po' tutti coglioni. E in effetti... Ma che c'entra? Ma lo disse una volta a quelli che votavano sinistra, a quelli che votavano Prodi, non è che lo disse che siamo ma tutti... Ma mi sa che sono anche quelli di destra, perché siamo tutti uguali, non sappiamo ribellarci a questo a questa infamia. Infamia, sì. Qual è l'infamia? La classe dirigente. La classe dirigente la vota lei, Ennio da Milano, Buonasera. Vai Ennio, dimmi. Senta, io volevo dirle che... No, dammi del tu, tranquillo. Sento tutte le sere, no? Sì. Ci sono delle cose che ho imparato e ti ringrazio, tipo quella, quando ho votato, un minuto dopo me ne sono dimenticato. Bravo. Quella è bellissima. Poi ho sentito questo Giovanni, questo che ha telefonato dei campi di concentramento, dei compattatori degli zingari, di sì. Maiali. Giorgio, mi ricordo come si chiamava. Allora? Io ho un negozio e di gente ne vedo parecchia, no? Sì. Ma il 90% delle persone la pensa così, come quello lì. Cioè il 90% delle persone vorrebbe uccidere e tritare i rom. Sì, ma con la bocca, capito? Cioè a parole, poi dopo ai fatti nessuno farebbe del male. E lei lo farebbe? Ma neanche morto, neanche a me sono entrati, come succede spesso. Però intanto lo dice, Hanno rubato le cose, io 250 euro di merce, io quei due giorni ho lavorato gratis, se li avessi presi li avrei bruciati in quel momento, ma dal dirlo, cioè, se lei li avesse presi lì sul momento in flagranza di reato li avrebbe bruciati? Ma sì, ma a parole, poi non l'avrei fatto, però quante volte dico io storia adesso qua, bruciare vivo, però non è vero, ma lo dicono tutti, ma in realtà poi non fa niente nessuno, perché alla fine siamo tutti cristiani normali. Ma scusa, no. Ma chiunque subisca un furto... No, però ha ragione l'ascoltatore quando dice che le parole di Giorgio da Genova, quello che ha detto, bisogna anche poi prendere per quelle che sono. Cioè, spesso la gente vuole dire Ennio parla e poi non succede nulla, cioè questo è chiaro. Chiaro, quando m'ha rubato fermi tutti, fermi. Grazie. Ma ci siamo dimenticati delle pasdaran berlusconiane di queste ore, che sono uscite fuori quando recentemente la mitica Noel Joy, te lo ricordi Noel Joy? No, Noel G, come me la invitavo sempre quando ero a Tele Lombardia. Alza la voce. La invitavo sempre quando ero a Tele Lombardia, la passionale di Forza Italia. Ma come no? Sentila. Quella che andava fuori da Cesano Bosconi. Sabato era fuori da dove era Berlusconi, lì, senti. Siamo fedeli al nostro Silvio, non l'abbiamo mai tradito. Presidente Berlusconi, senza te siamo fottuti. Ok ragazzi, questa è la numero uno, bisogna cominciare a venire qua. Manca la rima però, ma sì. Ti ho dato il numero anche oggi. Lo so, ma è una storia complicata. Senti, facciamo un appello se ci ascolta. Noel, rispondici. Sì, no, l'ho vista per te. Un'eventuale pedana, ci manca una piccola pedana per salire meglio. Allora pensavo che lei ci metteva ma dato pedana. Che io sono passionaria, posso anche essere una pedana, però accetto solo certi personaggi sopra di me. Uno solo, Silvio Berlusconi. Scambio di amorosi sensi tra Giuliano Ferrara e Vladimir Luxuria. Aveva iniziato Ferrara i trans mi eccitano. Struttura è una persona adorabile, io la ebbi a 8 e mezzo e tra l'altro la chiamai Vladimir e lei mi disse, o lui mi disse, grazie, sei l'unico che pronuncia bene il mio nome, perché da piccolo starò a morire. Però a te i trans non piacciono tanto, si tra... Vladimir, come non mi piace, mi piacciono da morire. I trans no, anche da morire, trans. Mi eccitano anche. Ma no, non è vero. Ma vai, Giulia, non è vero. Ma dai. Non è vero. Ma che stai scherzando? Ma dico, ma la sola idea di un transessuale è eccitante, basta la, è come una didascalia, transessuale. È una cosa meravigliosa, l'ermafrodito, è una cosa stupenda. Risposta di Luxuria. Viva Dio, uno che invece ci mette la faccia e dice sia vero o non sia vero, le trans mi eccitano. Bravo Ferrara, anzi gliela darò a Ferrara ad avercela. Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, che regalo che ti ho fatto, che regalo. È un po' tardino, anche se... anche se magari va a letto tardi, non lo so, è Donna Assunta Almirante, buonasera! Buonasera a lei, buonasera! Mi sono divertita a sentire le vostre chiacchiere di prima. Come andiamo? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, Parenzo è molto favorevole alla causa dei Rom, alla causa dei Rom. E che vuole fare? Donna Su, che dico che i Rom, il fenomeno Rom va governato, non va usato politicamente. Perché a lei stanno simpatici i Rom? Come lo governa lei? Che ne so, non lo so. Cara donna, cara la sua adesso. Ci dica come lo governa. Cara la mia donna Assunta, cara la mia donna Assunta, già Almirante. No, ora, già Almirante, no, che c'entra già Almirante? Perché? Come già Almirante? No, perché... già tuttora. È sempre Almirante, non è che si deve... Vabbè, perché hai messo già Almirante? Vabbè, scusa. Già Almirante, perché Almirante non c'è più e basta. Ma perché non sono morta io, no? No, lei per carità, anzi... E allora dice già, cara, già vuol dire già coniugata col signor Almirante. Vabbè, ma lei si vuole chiamare... Non sentiamo la mancanza. Ma, non è ma come punto. Non puoi dire non sentiamo la mancanza, Parenzo, dai, no, su. Io... Ma dai, ma guarda, veramente ti caccio, ti prendo a calci nel culo stasera. Dal punto di vista politico. Ma basta con questa storia ogni volta. Donna Assunta, gli dica qualcosa ogni volta con questa storia. Ma lei non dica parolacce. No, io non le dico perché stasera non è davanti a lei. Allora, io volevo... davanti a lei, questo. Davanti a lei non le dico. Alla signora Donna Assunta, voglio dire questa cosa qua. Il problema dei Rom, perché i Rom sono è un problema che, di cui la politica si deve occupare. Ecco. Deve mettere dei mediatori. Lei che cosa farebbe con i Rom, signora Donna? Deve organizzare. Sentiamo però, signora Donna Assunta. È possibile che lei li possa organizzare, perché sono secoli che vivono in queste condizioni. E le loro abitudini sono giuste, perché ognuno mantiene le sue, no? Ecco, ma secondo lei sono ladri? Vedi, ha detto anche che sono... Ma io per la verità non mi risulta, perché non hanno mai rubato niente a me, anche quando vabbè, quello, conto, quello che chiedono l'elemosina, quindi non posso dire che hanno rubato, lo dicono, ma io no, a me non risulta. Vabbè, ma scusi, ma che se lei vede un Rom per strada, che sensazione ha? Brava, ma nessuna. Nessuna? No, è uno come un altro. È uno come un altro. Ma scusi, allora lei... Vedi, brava, bravissima. I campi Rom, perché non va a fare una bella visita in un campo Rom, Donna Assunta? Ma io parecchie volte li incontro, ci chiacchiero pure, specialmente con le signore, con le donne, quando vedo tutte quelle belle gonne, gli orecchini lunghissime che mi piacciono tanto. Io ci chiacchiero pure. Addirittura? Sì, sì. Parenzo, lo vedi che è una sorpresa no, per ma te? Ma infatti... No, non è una sorpresa, perché Donna Assunta è una donna intelligente. Ci devo chiacchierare? Anzi, mi piace chiacchierare per sapere cosa fanno, come vivono, quali sono le loro aspettative, che cosa vorrebbero fare. Ma no, sa, ci sono esponenti... Vedo, mi dispiace moltissimo e non posso fare a meno di non allungare la mano e dargli qualcosa ai bambini e dico vatti a comprare il gelato. Ho capito, però signora, i genitori non dovrebbero mandarli a fare l'elemosina per strada. No, dovrebbero assolutamente. È una cosa che a me dispiace moltissimo. Per questo le sto dicendo che invece di vedere che chiede, io gli do i soldi prima che me li chiede e gli dico vatti a comprare il gelato. E tanto non cambia niente, signora. Io invece non lo do apposta i soldi, perché tanto non cambia nulla. Io glielo do così corre, veramente io chiacchiero con la mamma, il bravo ragazzo si va a mangiare il gelato. Beh, una donna di destra, una donna di destra, ci sono vari esponenti della destra in queste ore, in questi giorni, che dicono delle cose totalmente diverse dalle sue, signora. Ma non è che siamo tutti uguali. Salvini, per esempio, Salvini, signor Salvini, le piace come nuovo leader della destra italiana? Ma tutti di destra dicono che sono, e poi magari dopo un po' passano a sinistra. C'è ancora una destra? Cioè lei dice che Salvini un po' è un po' un paraculo da questo punto di vista. Sì, ci sta un po' chinino e poi vedrà che tra poco cambia zona. Cambia zona, eh. se lo vede a nuovo leader di tutta la destra italiana, no, difficile. No. Difficile. No. Fino all'altro giorno. No, ormai guarda, mi creda, ma la politica non lo fa né la destra né la sinistra. Ormai poi la destra non esiste più. Chiama a riposo assoluto, guarda. Ma anche la destra non esiste più. Sì, ma dicono non esiste né la destra né la sinistra. Ma Salvini nudo l'ha visto sulla copertina di oggi? No, mai, mai. Ma come mai? No, ma la copertina. Non è un desiderio mio questo. O altro, altri desideri, tranne questo. Che desiderio ha, signor Almirante? Scusi. Desiderio di vedere un'Italia serena. Ah, un'Italia, vabbè, ho ecco. Capito, quello tutti, ecco. Tutti più o meno. Soprattutto questi bambini che finiscono tutti i giorni o che ammazzano le donne o che ammazzano i bambini. È diventata una cosa che non è possibile nemmeno aprire più la televisione. Ha visto in Sicilia che succede una cosa tremenda, quella storia lì è una cosa incredibile. No, ma una cosa di una gravità senza limiti. Ma lei addirittura la madre che dice che accompagna il bambino a scuola invece poi risulta che non c'è mai andata. Ma è una cosa pazzesca. Ma lei la reintrodurrebbe in certi casi la pena di morte? Ma io penso che non sia una cosa necessaria, è una cosa che dobbiamo essere rieducati, perché non basta un caso di pena di morte, perché lei non può ammazzare tutti, eh? No, che no, no, la certo. Pena di morte, devo dire che forse ci sono troppe pene, anche queste, troppe pene che praticamente poi la gente ci si abitua anche a questo, Vede quante donne si ammazzano e che poi i mariti fanno finta che non l'hanno vista, magari hanno acceso pure i forni e l'hanno cotta. Addirittura. Sì, beh. Ma scusi un attimo, però adesso lasciamo perdere queste cose qui. Roma, la sua città, no? La città dove lei ha vissuto, no? La sua città d'origine. Dove ci sto e sto da padre eterno. Ma ha visto quello che sta succedendo? Ruberie di ogni tipo, la mafia, le mazzette, la cupola. Ma perché lei adesso se le ricorda queste? No, ma anche... sono abituata. Ma insomma, Alemanno, il suo amico Alemanno, amico. Il mio amico Alemanno ancora non è certo che abbia fatto tutto quello che ha però detto. Però è accusato di associazione criminale. Accusano, ma dopo un poco vedrà che smentiranno quello che hanno detto, perché non credo nella maniera assoluta, no, a parte che credo che non abbia nemmeno le necessità per poter rubare le poche cose che dicono che abbia preso, ma io non ci credo nella maniera assoluta, perché potrebbe fare altro invece che andare a prendere le piccole cose. E vabbè, ho capito, però qui si tratta di spartizioni, di nomine, di appalti milionari, gente di estrema destra insieme alle cooperative. Donna Assunta, non è un po' schifata? Non è una novità, ma non è un lei po' schifata? È nato oggi lei? No, però diciamo la verità. Non l'ha sentito la settimana passata, il mese passato. Se Giorgio Almirante suo marito si sta rivoltando nella tomba di fronte a queste. Giorgio Almirante credo che sia fuori dalla tomba e che non c'è più. In che senso, scusi? Se io apro il pezzetto che lascio sempre aperto per prendere aria, perché mi piace che prende aria, se cerco non lo trovo più, perché dice non è più la mia terra questa. Ah, c'è proprio scappato, dice lei. Altro, è scappato, altro perché che non è possibile. Ha detto trovatemi se volete, ma io non ci sto. No, ma se lei non ha capito, lascia aperto un pezzetto della tomba? Sì, sì. E come si fa a fare una cosa di atomo? Lui praticamente ha il suo monumento che ce l'ha lì, no? Sì. Con la sua. E lei lascia aperto un pezzetto. Che se lo sono pure rubato. E questo lo sappiamo. Questo lo sappiamo. E ne ho fatto un altro, no? Ne ho fatto un altro, ancora c'è. Ancora c'è quest'altro. Parenzo, non l'hai rubato tu quest'altro? Non lo vuoi andare a rubare? Non permetterei mai io di profanare una tomba. Non ma vede, mai. Se si arriva a profanare una tomba, quello mai. Però le voglio dire una cosa, cara. Voglio dirle una cosa, cara la mia donna Assunta. Volevo renderle onore di una cosa. Signor Almirante, l'onorevole Almirante, mai, sa che distanza c'è tra me e Almirante? Enorme. Ma mai Almirante avrebbe fatto una copertina come quella di Salvini, nudo sulla prima pagina di un settimanale. Vabbè, ma che popolare. Vuol dire? Ma che vuol dire? No, amico mio. Ma erano onore, altri tempi, onore, erano altri tempi, onore, dai, su. Onore, vabbè, però onore. Ha ragione il signore prima, un Cruciani, po' di moralità vale, ci vuole, prima. Via. Non c'è questione di tempi per essere dei morali, no? Ma che ragione ha di farti vedere nudo? Che ragione? Le pare che abbiamo tutti questo grande desiderio noi? Di vedere Salvini nudo? Cerchiamo di capirci, no? Qualcuno sì, signor Almirante, scusi. Ma non credo, ma perché non questo c'è non nemmeno credo. Questa necessità, perché lei ne ha a disposizione quante ne vuole di nudi. Sì, ho capito, però sa, Salvini nudo fa sempre non un è, po'. Non è una ricerca, capito? Non è una questione che ci rende assenti da queste viste. Sì, però quanto io ne vuole lei ne può avere. Di fronte a questa destra affarista, di fronte a questa destra che fa gli affari, non solo la destra, anche la sinistra, ovviamente. Ma guarda che li fanno tutti gli affari. Sì, d'accordo, non di fronte a questa destra, eh? Affarista, suo marito però è già scappato dalla tomba, diciamo la verità. Sì, sì, ma io penso che non è solo la destra che fa gli affari, perché quello, ormai è pane quotidiano questo, eh? Lo so. Destra, sinistra e centro. Destra, sinistra e centro, ma lei proprio non ha più nessuna fiducia. Salvini, pensavo le desse qualche fiducia, invece non le piace. No, lei lo dice che non mi piace, io non l'ho mica detto, perché mi vuole dire che ho detto ma che non mi piace? Ma lei ha detto, tornerà, poi adesso dice di essere di destra, poi tornerà a essere... Non mi pare entusiasta. Ma lei è un imbroglione? Ma non mi pare... È un imbroglione, vuole imbrogliare me, ma non ce la fa. Ma non mi pare troppo convinta su Salvini. Io e lei possiamo prendere in giro qualcaltro, ma lei da solo a me non ce la fa. Va bene, signora Mirata, arrivederci, a presto. Arrivederci, caro, grazie assai. Ciao, siete ciao. Siete sempre tanto simpatici. Vi voglio bene. Ciao, abbraccio. Arrivederci. Allora andiamo a Mantova, Renato. Buonasera. Vai, dimmi. Scusi, ma mi ha beccato col boccone in bocca perché ero poco. Che sta mangiando? È un'insalata mista. Che tristezza. Sono quasi vegetariano, lei farà orrogno. Quasi vegetariano. No, vabbè, orrogno fa le sue scelte. L'importante è che non rompa i coglioni agli altri, non lei, bravo, dico. Cioè i vegetariani, i vegani, eccetera, possono essere quello che vogliono. Sì. Possono anche. Ragione. Uno può fare anche il bevitore di piscio, no, Parenzo? Può essere anche un uno di. No, uno può essere anche un difensore dell'urinoterapia. Va benissimo. L'importante è che non vuole. Non mi rompe i coglioni a me, perché a me non mi va di bere la piscia. Come per esempio, se lei è vegano. Va benissimo, no. Stupendo, meraviglioso per la sua vita. Lei pensa che sia la cosa più bella del mondo, però non mi devi rompere il cazzo. Cioè, se io voglio mangiare la carne, non mi devi dare dell'assassino, non mi puoi rompere i coglioni. Renato, vai. Sono d'accordo con lei. Dimmi. Allora, volevo dire questo. Mi rivolgo al dottor Parenzo. Sì. Io sono un ascoltatore abbastanza assiduo da questa trasmissione. Capisco, sì, il gioco delle parti. Lei è quello politicamente non corretto. Lui. Allora? Dico che. Adesso mi sembra che esageri un po', perché io credo che il suo modo di pensare sia alla base di tanti dei problemi che ci sono. Ma quale? Quello di Parenzo? Adesso le dico quale. Quello di Parenzo? Non la persona Parenzo, io assolutamente rispetto, il modo di pensare, almeno quello che esprime in questa trasmissione. Allora, lui continua a farsi un vanto, non stringo la mano a Fiore, Casa Paudo mi fa schifo, Porta Nuova. Allora... Se lui si informasse, saprebbe che queste organizzazioni, quando fanno qualche manifestazione, non hanno mai creato alcun problema nell'ordine pubblico. Allora, lui lo dice, per un altro motivo, Renato, lo dice perché ideologicamente è contrario a quello che dicono questi, certo, qua. Però appunto. Nei fatti chi crea i disordini non sono questi movimenti, sono quelli a cui lui si probabilmente sono quelli, no. Che, sono quelli che vogliono impedire esatto. Agli altri di manifestare. In un attimo Italia, solo, abbiamo, ho capito sacco. Renato, devo chiudere, Francesco da Bologna velocemente, dai. Francesco, vai, dimmi, veloce. Ciao. Senti, io volevo dire due paroline a Parenzo. Dimmi, dai, veloce. Parenzo, tu ti rendi conto dei sacrifici che facciamo per mandare i ragazzi a scuola? Te ne rendi conto? E tu mi vieni a dire che le occupazioni sono belle. Bravo, Francesco. Io ti spezzerei le gambe. No, vabbè, questo. Ma come ti spezzi, sì, le gambe? Scusa, è un messaggio negativo che manda a tutti i ragazzi. Cruciani, io faccio l'autista sul camion. So 15 giorni in mezzo alla strada. Sì, vabbè, domani ti richiamo e glielo dici. Dai, Francesco, domani ti richiamo e glielo dici che quello già se n'è scappato, se n'è andato come al solito. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Mio figlio, gli faccio chiudere le orecchie. Non perché non le conoscano le parolacce, ma perché preferirai un mondo migliore. Migliore è. Rosa, fiori, profumo, vita, non cazzo, culo, merda, migliorati! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Caricio voglio ridere. Ciao, mi sono incazzato pure stasera. Radio 24. La passione. Si sente. La zanzara.